Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. A yellow lemon tree. A yellow lemon tree. Dimmi, dimmi, Deborah. Con che cosa ti sei lavato le mani stamattina? Con il sapone, naturalmente, come sempre, beh, ma più e più volte, come si raccomanda di fare, come mi raccomanda sempre di fare anche Nicoletta Carbone nel suo spazio che precede la nostra trasmissione, ci mancherebbe altro. Ma perché un me lo chiedi, scusa? Sapone all'aroma di limone? Può darsi anche, sì, a casa dovrei averlo così, infatti, ma perché me lo chiedi, insisti con questa cosa dei limoni? Perché lo sai che sono arrivati a costare quasi quanto i dipinti di Andy Warhol, merito di una domanda crescente che l'Italia, secondo produttore europeo, non sarebbe più in grado di soddisfare. Arriva l'allarme di Coldiretti e questa è una delle tante conseguenze di questa riorganizzazione dei nostri consumi in questo periodo, in questa guerra del coronavirus che si è abbattuta tra le nostre abitudini. E come mai lo questo andamento Francesco... opposto tra il petrolio e i limoni, giusto per cogliere così due beni un pochino lontani tra di loro? Ma questo non te lo saprei dire, forse perché l'acido citrico ha anche la possibilità di diventare combustibile, ma non lo dico io, lo scriveva Umberto Eco nel suo secondo diario minimo. E anche tutto questo non lo racconta io, ma lo ha scoperto Francesco Prisco, che ne scrive sul Sole 24 Ore. Quindi una storia carina con la quale abbiamo pensato di iniziare in maniera un po' allegra la nostra trasmissione. Per la verità, nei supermercati sta succedendo dell'altro, caro Mauro, e questo forse sarà un tema che dovremo cominciare ad esplorare, perché intanto nella grande distribuzione in questo periodo non ci si può permettere più di fare grandi promozioni e i prezzi sono tornati tutti pieni per tutti i generi, appunto, di largo consumo, e questo lo scrivevano stamattina alcuni giornali. E poi senti che cosa succede fra i consumatori. Queste cose me le raccontava ieri Luigi Gabriele, il nostro amico di Adiconsum, che mi ha raccontato che una signora gli ha confidato di aver comprato un quintale di sale. Aveva paura di rimanere senza perché durante la guerra alla sua famiglia era successo, e un altro signore gli ha confidato di aver comprato 70 kg di pasta per evitare i rincari. Ecco qua quello che sta succedendo. Ci sarebbe anche l'accaparramento, ma vabbè, adesso non stiamo a sottilizzare. In ogni caso, cara Deborah, di che parliamo oggi, essendo giovedì? Essendo giovedì si parla di investire informati. Allora, investire o disinvestire, prima cosa, in questo periodo di ottovolante dei mercati, anche questa è una domanda pertinente e che ci sta. Per la verità, noi oggi abbiamo raccolto una provocazione di un ascoltatore che ci ha detto: sì sì, voi parlate sempre di pianificare, stare sui mercati, avere pazienza, il lungo periodo, ma per chi non vuole correre nessun rischio, sappiamo che negli ultimi anni molte cose sono cambiate, il free risk non c'è più, e cioè un prodotto totalmente, un investimento totalmente esente da rischi non esiste. Allora noi stamattina abbiamo voluto interpellare un esperto di valore mondiale per chiarirci un po' le idee sul concetto di rischio, che naturalmente è anche molto personale, perché quello che è rischioso per me magari non lo è per Mauro Meazza. E quindi in questa fase chiedo agli ascoltatori, mettete mano al telefono, la vostra priorità è la protezione del risparmio dai rischi? Li avete riconosciuti? Come riconoscerli? Quali sono le scelte migliori? Ne avete parlato con il vostro consulente? 800 24 00 24, mano alla cornetta per interagire con noi stamattina su questo argomento. Se invece preferite mandarci un SMS o un messaggio via WhatsApp, il numero è quello abituale, 349 238 6666. Io mi sento comunque abbastanza sicuro, perché dall'altra parte del vetro vigilano su di me con occhio attento sia la Elisabetta Fusconi, che è oggi la badante di prossimità, per così dire, l'assistente sul territorio, sia l'ottimo Andrea Roccabella, che sorveglia con i suoi pulsantini tutta quanta la messa in onda. Abbiamo anche, prima di tutto ciò, Deborah, un giornale radio del risparmio? Altro che, se ce l'abbiamo, via! Amore, i soldi! Due perché? Yeah. siamo noi, due lottatori, due reduci, due canzoni d'amore. Sarai tutto emozionato stamattina, Mauro? Beh, sai, ho chiesto e ottenuto da Marco Lombardo e da Baba Fusconi questo ripescaggio di Raff, del mitico Raff con la sua due, perché addirittura due decreti legge in Gazzetta Ufficiale in un giorno solo, tra l'altro con due edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ho da leggere non per tanto tempo. Non ti capiterà mai più questa congiuntura astrale così favorevole. Credo che tu capisca dal mio tono di voce che sono un po' emozionato, però scherzi a parte, insomma, noi lo sapete oramai, lo sanno i nostri ascoltatori, la mettiamo un po' sul leggero, anche perché diciamo cerchiamo di renderci questo il più sopportabile possibile, se ci riusciamo. Il primo decreto legge è il numero 22 ed è quello dedicato all'anno scolastico, da i poteri appunto di cui abbiamo letto sui giornali, sentito alla radio, per la conclusione dell'anno scolastico, lo svolgimento degli esami. E poi, se possibile, forse più atteso, ma è difficile fare una graduatoria tra questi due provvedimenti, l'altro decreto legge, il numero 23, che è il cosiddetto decreto liquidità, misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese, poteri speciali nei settori strategici, la famosa Golden Power, e nonché interventi in materia di salute e di lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali. Il tutto in una edizione supplementare, per così dire, della Gazzetta Ufficiale, sempre in data di ieri, che è stata diffusa nottetempo e che trovate ad esempio sul sito del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com, oltre che naturalmente sul sito della Gazzetta Ufficiale. Io li sto anche mostrando, così come li ho stampati, li sto mostrando a chi ci segue sul Facebook. Scusa l'emozione, Deborah, ma capisci che specialmente questo decreto liquidità è, come dire, ci sono già le istruzioni dell'ABI per l'applicazione del decreto liquidità e quindi l'erogazione dei prestiti in banca. Io non voglio dire altro, mi fermo qui. Allora, Io invece lo dico dell'altro, io sono stanca di ricevere segnalazioni, mail, messaggi, WhatsApp da amici, non amici, ascoltatori, persone che ci raccontano che le banche ancora respingono le persone e adesso l'ultima che ho sentito ieri è che una grande banca italiana sosterrebbe di aver bisogno di misure attuative per dar corpo a tutti i provvedimenti del governo delle ultime settimane, a cominciare dalla moratoria sui mutui, fondo Gasparrini. Non c'è bisogno di nessuna istruzione, le banche devono solo andare avanti. Quindi, se questi funzionari in alcune aree del paese sono particolarmente solerti, ascoltatori, armatevi di santa pazienza e insistete, perché devono andare avanti, a patto che naturalmente abbiate le condizioni per poter chiedere la sospensione. Senti, io ho un comunicato fresco, ma dirti fresco è poco, perché è veramente arrivato due secondi fa da parte di Confconsumatori, che lamenta la mancanza di informazioni per tutti quei consumatori, per l'appunto, che chiedono come comportarsi nel caso in cui siano titolari di abbonamenti per viaggi in pullman. Allora, queste persone appunto avrebbero in questi giorni scritto in parecchi e si sono rivolti in parecchi agli sportelli online di questa organizzazione dei consumatori, che ci dà sempre una grande mano soprattutto per quello che riguarda le tematiche dei viaggi, per chiedere se in periodo di lockdown, quindi chiusura totale e blocco quasi totale di tutti gli spostamenti, hanno diritto al rimborso delle somme pagate in precedenza per l'acquisto dei titoli di viaggio attualmente non utilizzabili. Si fanno degli abbonamenti anche annuali e adesso non si sposta nessuno, quindi sono mesi persi. Allora, questa questione, dice Confconsumatori, deve essere valutata all'interno del momento straordinario di emergenza che stiamo vivendo e si devono considerare tutti i provvedimenti legislativi che le autorità pubbliche hanno emanato. Però Confconsumatori dice che i passeggeri possono invocare l'impossibilità giuridica sopravvenuta, totale o parziale, di cui determinati articoli del Codice Civile, e in secondo luogo il contratto di viaggio rientra tra quelli con prestazioni corrispettive e quindi, se il servizio non è stato erogato e non usufruito a causa degli avvenimenti straordinari, ricorre appunto l'ipotesi di cui spiega il Codice Civile. Mi rendo conto che sono tutte questioni abbastanza tecniche e

a un movimento a V dei mercati, a un movimento a U, che vi ricordiamo è abbastanza pericoloso perché prevede un periodo di stagnazione seguito alla discesa, che può portare anche a nuovi vinti e nuovi vincitori a livello borsistico. E soprattutto, siete preparati per uno scenario a L in cui ci sia un lungo periodo di recessione? Per questo è importante, adesso che sono accadute le cose, avere una diversificazione non solo degli strumenti in portafoglio ma anche delle strategie, e capire e comprendere bene che cosa sia in portafoglio, i costi, gli strumenti e i rischi che si stanno correndo e si potrebbero correre. Hai sentito, Mauro, come il messaggio di Salvatore Gazziano e Roberta Rossi, soci fondatori di Soldi Expert, una società di consulenza indipendente, fosse molto coerente, credo, con le indicazioni che abbiamo dato fino a questo momento con Carlo Mazzola. Che cosa ne pensi? Anzi, sentiamo magari lui che cosa ne pensa. Esattamente. Io passo la palla, per così dire, a Mazzola per proseguire l'azione. Prego. Non ci eravamo messi d'accordo. Le indicazioni che sono date sono estremamente sensate e coerenti, perché cerchi di capire se quello che hai è pronto a quello che potrebbe succedere. Si dice un rimbalzo del 20%, quindi se hai delle azioni stai guadagnando, ma teniamo presente che siccome i mercati sono incerti potrebbe esserci anche una nuova fase di debolezza. Quindi è proprio questo, no? Io penso sempre che si debbano usare le parole e se, cioè uno a un certo punto dice e se succedesse questo, questo è un buon modo per affrontare il rischio. Cioè, se i mercati dovessero salire del 20%, scendere oppure così, se no sostanzialmente gli investitori sono sempre privi di quello che possa essere anche un criterio di, diciamo, di analisi e di valutazione estremamente semplice. Non possiamo chiedere di essere dei quantitativi o di valutare le previsioni sulle crescite macroeconomiche in giro del mondo, per il mondo. Noi siamo proprietari dei nostri soldi e dobbiamo poter semplicemente dire, beh, se succede questo sono abbastanza pronto per affrontarlo col mio portafoglio. E tornando al discorso di prima sugli investimenti esenti da rischio, uno a un certo punto può scegliere delle forme a bassissima remunerazione che però ti permettono sostanzialmente, se hai 100 adesso, di avere forse 100 dopo l'estate, che di fatto è quello che chiedi adesso, no? Magari una grande incertezza che hai sulle tue aspettative di lavoro, su quello che succede. Io personalmente non ho molto chiaro le idee di cosa succederà da qui a 6 mesi, quindi credo che un minimo di atteggiamento prudente da parte di tutti sia estremamente di buon senso, anche per dormire sani e tranquilli. E il portafoglio presentato prima, le considerazioni che venivano fatte prima, rispondono a questo. La grande diversificazione è veramente quello che serve, no? E quindi noi come italiani, mi permetterei di dire che siamo in Italia, viviamo in Italia, abbiamo dei lavori in Italia, un buon senso di diversificazione è comprare azioni di tutto il mondo, no? Almeno uno si espone a degli altri rischi nel senso positivo. Deborah. Un altro tema di rischio, Mauro, è anche quello molto spesso di non conoscere bene le condizioni che l'intermediario, il consulente al quale ti rivolgi, appunto ti pone per prestarti della consulenza. In realtà MiFID ci ha dato delle indicazioni molto chiare, la direttiva europea ha stressato molto consulenti e intermediari, appunto, e li ha obbligati anche a dare una elencazione molto precisa dei costi che i prodotti di investimento, appunto, hanno come naturalmente sottostanti. È giusto che la consulenza venga pagata, ma ancora questo tema è un po' un tabù nel rapporto fra cliente e consulente. Anche questo è un rischio che corriamo se non abbiamo dei patti chiari e amicizia lunga fin dall'inizio da questo punto di vista. E qui mi suggerirei, Mauro, di sentire cosa è successo all'ascoltatrice di Palermo, Rita, che voleva proprio raccontarci il suo disappunto rispetto a questo argomento. Rita, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie di avermi chiamato. No, io devo dire che la mia consulente, per questo il mio consulente è stato molto chiaro, quindi io sapevo quali erano le condizioni. Solo che ora, molto probabilmente per le condizioni di mercato che ci sono state nel periodo precedente a questo guaio che abbiamo avuto e anche adesso, io non ho recuperato, perché sono entrato in consulenza per recuperare una gestione, una perdita per me notevole, perché i miei sono risparmi di tutta una vita e quindi per me, per altri magari saranno piccoli risparmi, per me sono notevoli, dovuta ad una gestione patrimoniale che non è andata molto bene. Sono entrata in consulenza. Adesso io non amo rischiare e vedo che in questo periodo credo che non è opportuno per me fare delle altre operazioni. però naturalmente continuo a pagare la consulenza. Il mio consulente è sempre presente quando io lo chiamo, mi chiarisce quello che è possibile per quello che io posso capire. Ora io vorrei sospendere momentaneamente la consulenza, senza però che il mio consulente possa pensare si offenda, se ne abbia male. Molto carina Rita, guardi, intanto grazie per la sua testimonianza che secondo me Mauro ci suggerisce anche di affrontare un po' di ABC della terminologia del risparmio. Possiamo farci aiutare da Carlo Mazzola a chiarire la differenza fra avere una gestione patrimoniale e passare ad un regime di consulenza, come lo ha chiamato Rita, quindi qual è magari la differenza fra le due diverse condizioni. E poi Rita chiede, insomma, magari avere uno sconto sulla parcella che io devo erogare in questo momento a questo consulente è possibile? Secondo me, con un intermediario finanziario dove la trattativa regna sovrana, io penso che tutto sia possibile e Rita abbia tutto il diritto di chiedere. Poi chiedere è lecito, rispondere è cortesia, come si dice, no, Mauro? Eh sì, sentiamo che dice Carlo Mazzola. Assolutamente, diciamo, la dialettica tra le parti è fondamentale. Allora, sicuramente quando si parla di gestione patrimoniale si delega completamente a un intermediario le scelte di investimento, mentre la consulenza comporta un ruolo più attivo da parte dell'investitore che sostanzialmente autorizza le singole operazioni. In linea di massima la consulenza costa meno perché c'è una parte del lavoro che viene fatta anche dall'investitore finale. E qui nello specifico caso è un problema che viene da anni, no? Dici, ma quando il mio consulente mi dice di non investire o di stare tranquillo, io devo pagarlo lo stesso o meno? Cioè, io penso che noi avremmo dovuto pagare tutti i consulenti se 2 mesi fa avessero detto guarda, non investire niente, tieni i soldi sul conto corrente e i mercati sono scesi, no? Quindi è molto delicato. Io ritengo che la categoria debba essere remunerata sempre perché sono dei professionisti che ti seguono, certo, più che sulla scelta del momento in cui comprare o meno, sul fatto di affrontare un pochettino questo viaggio col tuo patrimonio che è molto importante. E quindi, dopodiché, in un momento di difficoltà ci sono le persone che chiedono di non pagare l'affitto, penso che ci possa stare una negoziazione al ribasso, ma la vedrei più come una questione di contesto. Mentre ascoltavo sostanzialmente prima l'ascoltatrice che diceva sono uscita da una consulenza, cioè da una gestione per guadagnare con una forma di consulenza, manca un pezzo, perché tu guadagni con quello che compri, non con il vestito che ci metti sopra, quindi tanto. Cioè, questa è la prima cosa. E poi la vera riflessione, visto che comunque abbiamo, diciamo, un tono particolarmente amichevole in questa chiacchierata che stiamo facendo, noi facciamo sempre un test quando parlavi prima del costo, diciamo, dei prodotti, di quello che si fa e di capire dove si sta andando, e facciamo sempre il test delle tariffe del telefono. Molto spesso molti di noi dedicano molto più tempo a studiare il piano tariffario del telefonino e non sanno i costi dei prodotti finanziari, come sarà la loro pensione. Se voi pensate alle cifre in ballo che possono essere il frutto del vostro investimento rispetto a quello che possa essere il costo di una bolletta telefonica, dall'idea che purtroppo tanti investitori affrontino queste scelte senza sapere dove stanno andando, e questo gli espone a dei rischi che sono o di pagare un po' di più alcuni prodotti o sostanzialmente di fare proprio delle scelte sbagliate. E ci ricolleghiamo, come abbiamo iniziato a chiacchierare oggi, su quelli che sono i rischi e quelli che sono i desideri di dover portare il proprio patrimonio in coerenza con quelli che sono gli obiettivi. Cioè non si può pensare che un mercato finanziario degli intermediari automaticamente rispondano alle esigenze di un cliente che di fatto molto spesso è vorrei guadagnare senza rischiare. Io credo che questo sia veramente, si debba fare piazza pulita, e questo non è possibile. Esistono dei prodotti che ti permettono di avere margini di guadagno estremamente contenuti, una volatilità molto bassa e quindi delle oscillazioni, dell'incertezza bassa, e poi ci sono le azioni che sostanzialmente nel lungo termine hanno permesso a molte persone di guadagnare molto, no? Se uno vede l'andamento dei mercati negli ultimi 7-8 anni, vuoto per pieno quello che è successo negli ultimi 2 mesi a livello globale ci manda indietro di 2 anni e mezzo, quindi chi avesse investito tanti anni fa è ancora positivo. Certo, c'è ancora margine, dice certo, lei Mazzola. Ma c'è, ecco, anche margine per investire, perdonami solo un secondo, c'è anche margine proprio per investire sul futuro. Togliamo questa idea che uno debba investire tutto il denaro in un momento, tutte le scelte così, cioè, si diversifica tra investimenti, ti diversifica anche nel tempo, no? Non è che devi investire tutto oggi, puoi farlo nel prossimo anno, 10% al mese, tutto così. Certo. Allora, Deborah, sai, i nostri ascoltatori che sono molto preparati stanno spostando molto l'attenzione su obbligazioni, reddito fisso per dir così. Alcuni intendono obbligazioni societarie, altri intendono invece i titoli di Stato. Allora qualcuno suggerisce che dobbiamo fare, prendiamo BTP di lunga scadenza, di lunga gittata, in generale insomma tutto il mercato del reddito fisso, com'è, come si presenta in questo momento? Forse io dividerei le societario, cioè le società dal titolo di Stato, però dimmi certo. Tu Deborah che sei miglior giudice. Sì, no, guarda, mi va, sono assolutamente d'accordo nel condividere con Carlo Mazzola questa domanda e la introduco così, visto che l'abbiamo anticipato prima, che avremmo fatto questa lista della spesa, no, con la gerarchia della tipologia degli strumenti di investimento, da quello che ha rischio bassissimo a quello che salendo ha un margine di rischio più alto. Il reddito fisso, le obbligazioni governative, a che livello le mettiamo, per esempio, Mazzola? Allora, bisogna vedere, questo torna alle obbligazioni, possono avere un rischio molto basso se sono a 1 o 2 anni, se voi comprate i titoli di Stato a 10 anni o a 30 anni, qui le oscillazioni potrebbero essere molto elevate, perché se i tassi di interesse salgono, molto semplicemente, se voi prendete delle obbligazioni che rendono l'1% adesso e tra un anno i tassi di interesse dovessero salire, possono scendere di prezzo. Quindi bisogna stare attenti quando si parla di obbligazioni in generale. Diciamo obbligazioni fino a 1 o 2 anni non hanno un'altissima redditività, rendono poco, ma oscillano poco. Se vi spostate su investimenti molto molto lunghi, i rischi sono molto più elevati. Io personalmente, in un momento di grande incertezza, adesso non comprerei titoli a 10 o 20 o 30 anni, perché effettivamente sono molto a rischio e nella graduatoria di più rischio o meno rischio, ti direi che le obbligazioni societarie, nella più vasta accezione del termine, sono un tiro più rischiose, ma rendono un pochettino di più dei titoli di Stato, e hanno sofferto perché nella grande incertezza, se ci pensate, insomma, tutte le realtà industriali e finanziarie sono percepite più a rischio. Quindi bisogna fare attenzione anche quando vi propongono degli investimenti obbligazionari però di durata. Sì, la durata è molto importante, perché purtroppo tu vieni ingolosito dal fatto che, siccome rende di più, ti dicono: preferisci una che rende mezzo o che rende il 3%? È abbastanza evidente che la gente in linea di massima si spinga più verso il 3%, ma questo comporta una scelta di allungare molto l'orizzonte temporale. E quindi poi, se si allunga il tempo, si riduce un po' questa cosiddetta stabilità. La interrompo perché è già il 46esimo addirittura, e allora con un minuto di ritardo è il momento di lanciare il traffico e poi torniamo parlando dei titoli di Stato, magari che vengono sollecitati da più parti. Il traffico. Due di denari. Investire informati. Buongiorno a tutti. E come possiamo noi consulenti finanziari aiutare i nostri clienti? Penso che un principio fondamentale sia chiarire il concetto di paura, perché noi esseri umani nella vita siamo completi solo se riconosciamo le nostre ombre. Il ruolo dei consulenti finanziari, ora ancora di più, è quello di aiutare i nostri clienti a far emergere tutte le loro paure finanziarie e non, in maniera che con la fiducia reciproca vi aiutiamo a far capire che le idee migliori nascono proprio per uscire dalle paure stesse. Quindi questa volatilità dei mercati non ci deve intimorire, ma deve essere una grande opportunità di crescita. E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Vania Franceschelli, consulente finanziario di Modena, ma soprattutto, visto che abbiamo sempre un'ampia gamma di consulenti di valore mondiale, Vania Franceschelli è anche vicepresidente della Federazione Europea dei Consulenti Finanziari, quindi insomma ne sa Mauro, e speriamo che il suo approccio sia stato apprezzato anche dagli ascoltatori. Allora, titoli di Stato. Tra l'altro pensavo, Mauro, che vedo che molti ascoltatori chiedono cosa ne pensa il nostro consulente Carlo Mazzola di investire in un BTP a lunga scadenza. ovvio che chiedono questo, perché quelli a breve scadenza ancora continuano a navigare in territorio negativo, a parte le scadenze che abbiamo visto ieri, perché il BTP a un anno è tornato ad un rialzo del rendimento e tocca adesso il mezzo punto, ma negli ultimi 3 anni abbiamo sperimentato questo mare molto curioso nel quale abbiamo navigato nei rendimenti negativi del debito pubblico appunto italiano, dei titoli di Stato a breve scadenza. Quindi forse è per questo che sono molto portati questa mattina a chiederci cosa ne pensiamo di BTP a gittata più lunga. Prego Mazzola. Allora, sì, effettivamente se guardi a 10 anni il rendimento è dell'1,64%, i livelli dei tassi di interesse è proprio sceso a dei valori che anche gli stessi libri di finanza hanno problemi a giustificare, no? Quando io ho studiato 30 anni fa i tassi di interesse erano tutti positivi e la modellistica è stata fatta su questo. Sicuramente iniziare a comprare qualcosa, se uno ha tanti soldi sul conto corrente e si avvicina o ha dei titoli a un anno che rendono circa il mezzo punto, non è che oggi uno deve decidere di passare completamente dal conto corrente ai titoli di Stato italiani oppure a un fondo, diciamo, di obbligazioni societarie che rende magari 2 o 3%, quindi si porta a casa un po' di rendimento in più. Può iniziare a farlo in modo graduale, perché come diceva prima Deborah siamo passati comunque dal negativo al positivo, quindi qualcosa è sempre meglio di niente o di una cosa negativa. Pian pianino ci si può avvicinare, è anche un modo per sostenere il nostro paese comprando dei titoli così. Mettiamoci in mente che non si diventa ricchi con i titoli di Stato italiani adesso, a maggior ragione se uno li compra con una scadenza molto lunga, quindi perché no, pian pianino si può iniziare a comprare qualcosa. Io eviterei di andare su scadenze però particolarmente elevate, quindi non andrei sopra i 5 anni, che adesso più o meno rende un punto. Però come questo vi ribadisco, non è che passiamo da tutto conto corrente a tutto titolo di Stato. Questa certo. È la grande riflessione. Bisogna sempre evitare, specialmente in fasi come queste, di fare degli spostamenti più dettati così dalla paura, dal momento di preoccupazione, che poi però non sostengono una vera pianificazione. Cioè, poi per parlare chiaro, non sappiamo bene cosa farne di questi risparmi e allora poi facciamo anche un po' di confusione. Però a questo proposito, in momenti come questi uno cerca così di avere subito anche la liquidità. Non tutti i prodotti garantiscono immediata liquidità, noi ne abbiamo già evocati diversi nel corso della puntata. Mazzola, questo è un problema per molti risparmiatori, perché magari in questo momento vorrebbero uscire, ma si sentono dire ci vogliono 2 settimane, 3 settimane, che pare niente, dice lei, vabbè, ma rispetto agli anni, ma in questo momento invece pare tanto. No, personalmente ti direi che 2 o 3 settimane quando hai fretta ti sembra l'eternità, quindi pare niente, non... Ed è tra l'altro la sensazione di non poter riprendere i propri soldi. In alcuni prodotti, tra l'altro più complessi o comunque non così trasparenti, ogni tanto quando esci devi anche pagare delle commissioni di uscita e quindi non solo magari hai perso il valore del tuo investimento, ma ti viene anche decurtato. Io ritengo che ci siano moltissimi prodotti che sono molto trasparenti, tutti i prodotti che sono quotati in borsa, ma poi quando si parla di borsa molti si fermano così. Esistono dei prodotti finanziari che sono chiamati ETF, che sono dei fondi di investimento che rispecchiano tutti i desideri degli investitori, dal monetario di chi vuole rischiare poco all'azionario di frontiera sui titoli della Mongolia, che essendo quotati in borsa hanno la grande facilità di avere una sostanzialmente una liquidabilità a 2 giorni. Quindi se noi vendessimo oggi, adesso lasciamo stare che c'è di mezzo Pasqua, quindi c'è qualche giorno di borsa chiusa, comunque se tu vendi il lunedì, il mercoledì hai i tuoi soldi sul conto. Ecco, diciamo, molto spesso la liquidabilità di un buon prodotto non è che ti fa sì che questo prodotto sia di qualità inferiore a un prodotto che tu non possa vendere. Alcune strategie di investimento effettivamente sono di lungo termine, no? Quindi è giusto che ci sia poca liquidabilità, però molto spesso gli investitori si bloccano un pochettino le mani senza portarsi a casa grandi vantaggi. Quindi io dico sempre, a parte il conto corrente, quello che dicevamo prima, tutti i prodotti quotati in borsa hanno una liquidabilità a 2 giorni, quindi avvicinarsi a questi prodotti, che purtroppo molto spesso non sono remunerativi per gli intermediari che li vendono e quindi preferiscono magari venderti una polizza con un lock up di un periodo che da cui tu non puoi uscire, bisogna un pochettino scoprire questo. Ma torniamo all'esempio di prima, un po' bisogna anche documentarsi, trasmissioni come la vostra cercano di aiutare i soggetti a capire che investire è molto importante, ma un qualcosina dobbiamo farlo anche noi, no? Non si dimagrisce senza far ginnastica, quindi certo, questo è il problema, no? Faremo tutti. Quindi, non tocchiamo, non tocchiamo questo tasto perché la, come dire, la quarantena porta al fatto che, non so, io spero che andrà tutto bene, però andrà tutto stretto sicuramente a me personalmente. Deborah. Ecco. Sì, allora, noi siamo partiti dalla considerazione dell'ascoltatore Giuseppe che diceva che non c'è una grande comunicazione sul ritorno sul mercato appunto dei conti di deposito. In realtà questo grandissimo ritorno non c'è. Ci sono alcune grandi banche che in questo momento stanno tornando a provare a fare raccolta sul mercato o comunque ad accontentare la propria clientela proponendo appunto questi piccoli salvadanai, quindi questa remunerazione un po' più alta per delle somme vincolate. Allora, come funzionano i conti di deposito? Mazzola ha avuto modo di dare un'occhiata a quello che c'è in questo momento nel mercato. Non dobbiamo parlare ovviamente di prodotti, peraltro ce n'è anche qualcuno che fa pubblicità sul nostro network e quindi non vorrei neanche enfatizzare troppo, non sembrerebbe molto professionale da parte mia ed etico, però c'è domanda da parte dei risparmiatori e l'offerta pure si sta manifestando. Cosa dire su questa soluzione? Sì, c'è qualcosa, molto spesso i conti di deposito oppure diciamo, forme in cui presti il denaro a una banca con un conto corrente e ti impegni per un periodo a non portarlo via e uno pensa oppure semplicemente anni, magari tutto quello che hai sul conto corrente una parte la vincoli e deve stare lì ferma per 6 mesi, 12 mesi, quindi non è detto che tu debba spostare da un'altra banca, magari lo fai all'interno di quella che hai già. Diciamo che all'interno di, se uno ha un conto corrente all'interno di una banca e viene proposto una sorta di deposito vincolato in cui porta a casa qualcosina in più, perché no, se viene fatto sostanzialmente così. Non è detto che tutte le banche decidano di farlo perché preferiscono lasciare su un conto corrente in cui pagano un interesse più basso. Molto spesso queste tipologie di investimento hanno reso bene agli investitori quando sono fatte da alcune banche per fare un pochettino di raccolta. Immaginiamo la banca, esatto, che vuole posizionarsi sul mercato e che dice: guarda, fino a 100.000 euro, se mi blocchi la liquidità a 3 mesi, 6 mesi, un anno, ti do un punto per cento. E siccome più o meno le banche, adesso non dico che sono quasi tutte uguali, uno si guarda un pochettino intorno, perché non aprire su un'altra banca in cui magari porta a casa una remunerazione un po' più elevata, che magari anche rientra anche nella diversificazione tra banche. Ci sono, non è più come un tempo perché i tassi sono più bassi, ma ci sono alcune banche che fanno anche comunicazione su questo e in questo momento in cui abbiamo anche tanto tempo, perché provare a non chiedere? Tra l'altro, aprire un conto corrente per chi è già titolare di un conto corrente in Italia è estremamente semplice perché non hai problemi dell'antiriciclaggio, quindi non è che devi andare in banca e impazzire, è molto molto semplice. È un buon modo per portare a casa qualcosina in più in un periodo in cui il rendimento facile a cui si era abituati 20 anni fa purtroppo non è più possibile, quindi queste sono forme in cui chi ha voglia di darsi da fare porta a casa qualche soldo e io credo che sia un ottimo modo per gestire il proprio patrimonio. Ecco, scusate, ecco, se però non è proprio un investimento, sì. No. Sì, no, no, dicevo, devo dirvi due cose. La prima è che siamo agli ultimi 30 secondi della trasmissione. La seconda è che, attenzione, abbiamo parlato prima della liquidità o liquidabilità di un investimento. Ovviamente il conto deposito sta agli antipodi, perché in quel caso lì io devo vincolare la somma, allora poi se ne avessi bisogno. E con questo però siamo agli ultimi 10 secondi della nostra trasmissione. Cara Deborah, vuoi salutare allora tu il nostro ospite? Sì, salutiamo Carlo Mazzola, ci è piaciuto molto per la sua chiarezza e lucidità mentale ed espositiva, e quindi che si tenga pronto, non com'è che dici tu Mauro sempre, non lasci si tenga il paese. A disposizione, non lasci il paese. Non lasci il paese perché probabilmente avremo bisogno ancora del suo aiuto per qualche altra puntata in futuro. Allora, noi torniamo domani, anche se è venerdì santo, peraltro, per cui non facciamo ancora gli auguri agli ascoltatori, li facciamo domani. Esatto, a domani.